Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro secondo, versi 708-875. Libro terzo, versi 1-130. Mercurio sta rientrando in volo all'Olimpo. Spicca il volo il Dio che porta il caduceo con ali alzate e ferme e contempla dall'alto gli spazi del porto di Atene prediletti da Pallade Atena e il Liceo col suo parco curato. Si dà il caso sia giorno di festa e, secondo rituale, fanciulle illibate salgano alla rocca di Atena, recando in capo i purissimi arredi del culto in canestri di fiori. Adesso stanno rientrando e il Dio con le ali a vederle, invece che in linea retta si mette a volare in tondo. Come il nibbio, uccello fulmineo fra tutti, se visceri a vista, finché i sacerdoti si accalcano intorno all'altare, ha paura e ruota, senza però scostarsi di troppo, volteggiando largo sopra la preda delle sue brame, l'agile dio di Cillene piega il volo così sulla rocca dell'Attica e traccia ad anello sempre l'identica aria. Di quanto la stella di Venere risplende più delle altre, e l'oro di Febe la luna più della stella di Venere risplende, di tanto più bella delle altre fanciulle incedeva Erse, gloria di tutto il corteo e delle stesse compagne. Tra secola, dalla bellezza il figlio di Giove, e lissù, appeso per aria, si infiamma come piombo scagliato da fionda di Baleari, che vola e si arroventa volando, e trova sotto le nuvole un fuoco che non sapeva. Il Dio cambia rotta e lasciato il cielo a terra, ma non si traveste nemmeno, talmente confida nel proprio fascino. Più che giusto, però si ritocca col massimo scrupolo, si liscia i capelli, si aggiusta la clamide, che gli caschi per bene, che insomma si notino le bordure d'oro e quant'altro. Gli luccica in mano la verga che induce e che scaccia il sonno. I sandali gli sfavillano sui piedi lavati a dovere. La parte più riservata della casa ha tre stanze da letto, rifinite in tartaruga e avorio. Pandroso, a destra la tua, quella di Aglauro a sinistra, in mezzo quella di Erse. Si accorge della venuta di Mercurio per prima la Vergine di sinistra, che si permette di chiedergli nome e motivo della visita. Lui le risponde: «Sono il nipote di Atlante e di Pleione, quello che porta per l'aria le disposizioni di mio padre, e mio padre è Giove, Giove in persona. Non cerco scuse. Basta che tu sia leale con tua sorella e sia disposta a farti chiamare zia dai miei figli. Son qui per Erse, sii buona, da una mano a chi ama». Lo squadra Aglauro con gli stessi occhi con cui ha appena scoperto i segreti della bionda Minerva. Per il servizio pretende dal dio una gran quantità d'oro e tanto per cominciare lo caccia di casa. Ma su lei la dea della guerra indirizza un'occhiata torva e spreme dal fondo del cuore un sospiro tanto impetuoso da farle tremare ad un tempo il seno e l'egida che le pavesa quel seno robusto. Ripensa che quella impiamente ha violato il segreto del figlio del dio di Lemno, nato senza una madre, sbirciandolo ad onta dei patti, che adesso lucrerà pure la riconoscenza d'un dio e d'una sorella arricchita dall'oro esosamente preteso. Ed ecco che vola dall'invidia alloggio nerastro di putridume. La casa è rannicchiata sul fondo d'una valle priva di sole, inaccessibile ai venti, lugubre, invasa da un torpore gelato, da sempre disertata dal fuoco e intasata di nebbia. Giunta davanti alla casa, la Vergine Dea, così minacciosa in guerra, si arresta, non avendo licenza di entrare, e con la punta della lancia bussa ai battenti, che sotto i colpi si aprono. E lei vede dentro l'invidia in persona, che mastica carne di vipera per alimentare il suo vizio. E a vederla gira gli occhi, ma quella s'alza su dalla melma sputacchiando corpi di serpi mangiati giusto a metà e fiaccamente s'avanza. Appena vede la dea bellissima d'armi e d'aspetto, rantola e in una smorfia caccia un sospiro profondo. Il pallore le stagna in faccia, il corpo è tutto spolpato, non guarda mai dritto negli occhi, ha i denti arrugginiti dal tartaro, il petto verde di fiele, la lingua spalmata di veleno, non ride, salvo se vede dolore, sorridere. Non si gode mai il sonno, agitata da mille assilli. Assiste con sofferenza ai successi degli uomini, non li sopporta, si rode nell'atto di rodere gli altri ed è questo il suo supplizio. Per quanto le faccia orrore, la dea Tritonia le si rivolge con queste poche parole: infetta col tuo veleno una delle tre figlie di Cecrope, bisogna, si chiama Aglauro, e se ne va senza aggiungere motto, si stacca da terra spingendosi con la lancia. Quella, seguendo con occhio sbieco la dea che dilegua, si produce in un borbottio sommesso e già si rammarica del piacere che finirà per fare a Minerva. Prende il suo bastone fasciato da una spirale di spine e, avvolta in un nuvolo nero, dove passa, acciacca i fiori dei campi, bruciacchia l'erba, taglia la testa ai papaveri e col suo fiato appesta popoli, case e città. Alla buon'ora scorge la rocca di Pallade, dove sbocciano ingegni ed opere, ed è tutta una festa di pace. Non trovando motivo di piangere, le viene quasi da piangere. Ma una volta entrata in camera della figlia di Cecrope, esegue gli ordini. Con la mano rugginosa il petto le tocca, le stipa il cuore di spine uncinate, le soffia dentro un succo letale che per le ossa dirama e le imbeve tutti i polmoni d'un tossico nero come la pece. E perché non cerchi troppo lontano la causa di tanto strazio, le mette davanti agli occhi le nozze felici di sua sorella, il Dio, e tutto sotto una luce di spropositata bellezza. S'adombra la figlia di Cecrope, morsa da un sordo dolore, e smania di notte, e smania di giorno, e geme, e si strugge d'un lento male, la povera, come ghiaccio colpito dall'intermittenza del sole. La felicità, la fortuna di Erse la bruciano piano piano, come fa il fuoco sotto un cespuglio di spine, che non sprigiona fiamme, ma tiepido incenerisce. Alle volte vorrebbe morire pur di non vedere la cosa, alle volte vuol denunciarla come un crimine al rigido babbo. Alla fine si siede sull'uscio per impedire l'ingresso al Dio che sta per tornare. Ed a lui che le si profonde in complimenti, preghiere, frasi dolcissime, smettila, dice, di qui non mi sposto finché non ti togli dai piedi. D'accordo, ribatte il Dio, se il punto è questo, ci sto. E con la bacchetta divina spalanca i battenti. Lei fa per alzarsi, le parti però del corpo che piega chiunque si sieda non le rispondono intorpidite dal peso. Altro se si accanisce nello sforzo di mettersi dritta, ma i ginocchi sono rigidi, ma il gelo le corre giù fino alle unghie, ma le si scolorano le vene al ristagno del sangue. Come un tumore maligno serpeggia dovunque, incurabile, e dagli organi infetti aggredisce gli organi sani, così quell'inverno di morte, poco a poco le invade il petto, le chiude i condotti vitali, le mozza il respiro. Lei non tenta nemmeno di parlare, ma anche tentasse, non le uscirebbe la voce. Il collo si è fatto di pietra, la faccia è dura. Lei siede senza un goccio di sangue, una statua. Ma non è bianco il marmo, l'anima glielo sporca. Dopo averla punita così delle frasi e delle intenzioni empie, il nipote di Atlante abbandona il paese che prende il nome da Atena e in un batter d'ali si tuffa nel cielo. Suo padre lo chiama e, tacendogli il movente amoroso, «Figlio mio», gli fa, «così pronto nell'eseguire i miei ordini, non perder tempo, fiondati giù con il solito slancio. C'è un paese che, per chi guardi il cielo, vede tua madre con le Pleiadi sulla sinistra. I locali lo chiamano Sidone. Vacci. Vedrai lontano una mandria del re pascolare sui prati dei monti. Bene, spingila verso la spiaggia». Detto fatto, e i giaitori cacciati dalla montagna si avviano alla spiaggia prestabilita, dove alla figlia del re piace giocare insieme a ragazzette di Tiro. Non si conciliano bene e stentano molto a coesistere amore e maestà, smettendo la solennità dello scettro, lui padre e re degli dei, che con la destra brandisce il fuoco a tre punte, che sgrulla l'universo scuotendo la testa, assume l'aspetto d'un toro e, mescolato alle mucche, muggisce trotterellando sull'erba tenera. Splendido! Ha il colore di neve che non conosca le impronte di piedi pesanti o lo squaglio del piovigginoso scirocco. Il collo è un fascio di muscoli, dalle spalle gli penzola il rumine. Le corna son piccole, ma si direbbero proprio molate a mano e più trasparenti d'una qualche purissima gemma. Non è minacciosa la fronte, gli occhi non fanno paura, il muso irradia dolcezza. Stupisce la figlia di Re Agenore, bello com'è, non è bellicoso per niente. Per quanto sia mite, però lei non si azzarda a toccarlo, ma poi gli si accosta e porge un mazzetto a quel candido muso. Gode l'innamorato e, sognando ben altri piaceri, bacia quelle manine, il resto a più tardi. E una volta scherza e saltella sul verde del prato, un'altra stende il corpo di neve sopra la sabbia rossiccia. Dissipato ogni timore, offre a quelle mani di vergine ora il petto da palpeggiare, ora corna da inghirlandare di fiori freschi. Ed arriva la principessa, non sa su chi stia montando, a montare in groppa al toro. È allora che il dio, pian piano staccandosi dall'asciutto della riva, comincia a stampare sull'acqua impronte di zoccoli finti e continua a inoltrarsi nel mare e porta la prigioniera al largo. Ha paura la piccola e, rigirata a guardare la spiaggia perduta, si tiene con la destra ad un corno, con l'altra alla groppa, la veste le rabbrividisce di brezza. A questo punto il dio, deposto il finto sembiante di toro, si è dichiarato sulle falde del Monte Ditte. Frattanto, ignaro di tutto, il padre della rapita spedisce Cadmo a cercarla e, se non la trova, affettuoso ma al tempo stesso spietato, gli commina tanto di esilio. Girato il mondo intero, chi la scova la re furtiva di Giove? Il figlio di Agenore si tiene comunque alla larga dalla patria e dall'ira del padre e va a consultare l'oracolo di Febo, implorandolo che gli dica in che terra stanziarsi. «Una mucca», Febo risponde, «ti verrà incontro su un campo deserto, esente dalla servitù dell'aratro e dal giogo. Tu valle dietro e sull'erba dove si sdraia fonda le mura d'una città e chiama quel posto Beozia. Cadmo è appena sceso a valle dall'antro castalio che vede. Che vede? Una vacca ciondolare incustodita, senza sul collo il minimo segno di cattività. La segue e con passi furtivi ne ricalca le impronte, benedicendo in cuor suo Febo, maestro di via. S'era già lasciato alle spalle la focide e i guadi del Cefiso, quando la mucca si ferma e, levando al cielo la fronte bella di nobili corna, scuote l'aria coi suoi muggiti e, giratasi a controllare se l'hanno seguita, si sdraia. Su un fianco si sdraia, premendo la tenerezza dell'erba. Cadmo ringrazia il Dio, stampa di baci la terra straniera e saluta quei monti mai conosciuti e quei campi. E indice un sacrificio a Giove, comanda ai compagni di attingere da una sorgente viva acque lustrali. C'era un'antica foresta che non conosceva l'accetta. Nel mezzo una grotta nascosta da un salice e dalla saggina che con un accrocco di pietre formava una volta bassa. Grotta ricchissima d'acqua dove stava acquattato un gran serpente di Marte insignito di creste d'oro. Gli brillano gli occhi di fuoco. Il corpo gli stipa veleno. Di bocca dardeggia tre lingue, schiera tre file di denti. Quando con calamitosa baldanza i fuoriusciti di Tiro mettono piede nel bosco e calato nell'acqua il secchio schiocca, di già nel profondo dell'antro il serpente bluastro caccia la testa e fa sibili terrificanti. I secchi cadono di mano, il sangue diserta quei corpi. Un improvviso tremito si appropria di membra atterrite e quello, inanellato in mutevoli spire di squame, guizza e s'inarca e disegna a sobbalzi immense volute, tanto che dritto, più che a metà, nell'aria leggera, sovrasta il bosco, enorme, a vederselo intero davanti, non meno del serpente che separa le urze celesti. E già si getta contro i fenici, sia che si accingano a crivellarlo o a fuggire, sia che nel terrore né a questo né a quello, e uno a morsi e stritolandolo un altro nelle spire, e quelli li ammazza con la peste dell'alito. All'apice il sole aveva ridotto a nulla le ombre, che stupito per il ritardo dei suoi, il figlio di Agenore si mette in cerca. Per veste ha la pelle strappata a un leone, per armi una lancia di ferro lucente, un giavellotto e più efficace di tutte le armi, il coraggio. Si inoltra nel bosco e subito vede i cadaveri a pezzi e sopra il corpo spropositato del nemico, trionfante, che lecca le misere piaghe con la lingua che sgocciola sangue. O vendicherò la vostra morte. «O miei fedelissimi, sarò con voi», lo dice e nella destra solleva un enorme macigno e lo scaglia con uno sforzo enorme. L'impatto che avrebbe scalzato una cinta imponente di mura con tanto di torri, il serpente non lo scalfisce nemmeno, protetto dalla corazza di squame com'è. La durezza della sua pelle brunita rintuzza il colpo tremendo. Durezza che non regge però al giavellotto che penetra il serpente in una voluta della elastica spina dorsale e gli si pianta nel ventre con tutta la punta di ferro. Inferocito dal male, quello torce la testa all'indietro, vede la piaga, addenta l'asta che è lì conficcata, la scrolla da una parte e dall'altra con forza e riesce a strapparsela via, ma il ferro gli resta piantato nell'osso. Allora, esasperata da un motivo di più, la ferocia di sempre, gli si tumefanno di sangue le vene del collo, una schiuma biancastra gli urla la bocca pestifera. La terra, dalle sue squame rasentata, crepita e il fiato, che che lui caccia, nero di stige, appesta un'aria già spessa. Ora avvolge le spire in anelli mostruosi, quando non si drizza più dritto di un alto fusto, se non si avventa con la vasta potenza d'un fiume pressato dalle piogge e schianta col petto quanto nel bosco lo ostacola. Rincula il figlio di Agenore un po' con la pelle leonina sull'avambraccio, rintuzza gli assalti e tiene a distanza con la lancia le fauci che incombono. Infuria la bestia, dà morsi inutili al ferro e conficca i denti nello spunzone. Adesso il palato comincia a scolargli sangue e veleno e a colorare di spruzzi il verde del prato, ma lieve è la piaga, perché la bestia si è ritratta e, assecondando il colpo, il collo piagato impedisce alla punta di lancia di affondarne la carne e di piantarsi più a fondo. Il figlio di Agenore intanto incalza spingendole il ferro nella gola, finché una quercia si para alle spalle del mostro che arretra e, forata la testa, il ferro la inchioda sul tronco. Sotto il peso di tanto serpente si curva l'albero e cigola flagellato dall'estremità della coda. Il vincitore misura l'immane stazza del vinto e subito sente una voce di dove arrivi non sa, ma arriva e dice: «Perché contempli, figlio di Agenore, il serpente ucciso, anche tu sarai contemplato serpente». Quello spaurito forte perde insieme la testa e il colorito, un terrore di ghiaccio gli drizza i capelli. Ma la sua amica Pallade lo raggiunge planando sui cieli e gli intima di dissodare la terra e di seppellirvi dentro i denti del drago, promessa di un popolo nuovo. Ubbidisce e, tracciati i solchi a forza d'aratro, li semina, come gli è stato ingiunto, di denti, semi di uomini. Allora, non ci si crede, le zolle cominciano a smuoversi e dalla terra smossa a spuntare punte di lancia, poi caschi con tanto di piume a colori che ondeggiano in cima, poi sbucano spalle e toraci e braccia cariche d'armi, e cresce una messe di gente con lo scudo. Così, nelle feste, quando a teatro il sipario si leva dal basso in alto, tu vedi spuntare per prime le facce dipinte sul telo e il resto pian piano, finché le figure lentissimamente srotolandosi appaiono intere coi piedi poggiati sul bordo del palcoscenico. Cadmo, atterrito dal nuovo nemico, mette mano alla spada. «Non farlo!» urla uno del popolo nato dal suolo. «Non ti mischiare in una guerra civile!» E nel dirlo pugnala il fratello più vicino, figlio anche lui della terra, e un dardo che arriva da lontano abbatte anche lui. E chi lo ha abbattuto, no, non di molto gli sopravvive, che già sta esalando il respiro di cui da non molto fruisce. Sul loro esempio l'esercito intero si ammazza da sé e quegli improvvisi fratelli si scannano l'uno con l'altro. Ecco giovani destinati a un sì breve spazio di vita sulla madre terra, tiepida dal sangue loro, bocconi, tutti tranne cinque, fra i quali va annoverato Echione. Ammonito dalla Tritonide, ha gettato le armi per terra e chiede pace ai fratelli e ai fratelli offre un patto di pace. Li prese a collaboratori l'esule di Sidone, quando, secondo l'oracolo di Febo, fondò la città